L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e ben ritrovati per questa puntata dell'Altro Pianeta, nella quale affronteremo due argomenti davvero molto diversi. Tra pochissimo ritroveremo un amico di vecchia data di questo programma che si chiama Marino Piasentà ed è un esperto, un pioniere anche possiamo dire nel campo delle energie rinnovabili, e parleremo con lui questa volta di gestione e monitoraggio energetico di piscine e impianti sportivi che costano tanto in termini energetici e di conseguenza per i gestori anche in termini economici. Questo sarà nella seconda parte di questa puntata. Ora vi presento invece Melanie Librario, che è General Manager di Subito.it, una piattaforma di commercio online di oggetti usati. E questo commercio che significato ha da un punto di vista ambientale? Beh, che c'è un minor impatto, perché sono oggetti usati che non finiscono in discarica, ma vengono utilizzati in una seconda vita, possiamo dire. Ed è proprio quello che Subito.it ha cercato di calcolare. Qual è il risparmio ambientale di queste transazioni? Sentiamo la Librario. Ce lo siamo domandati con altri paesi che hanno un business come il nostro. All'interno del nostro gruppo abbiamo deciso di fare una ricerca per capire qual era l'impatto green della compravendita dell'usato, e quello che abbiamo scoperto dopo lunghe ricerche e tanti calcoli è che grazie a Subito abbiamo risparmiato 3,4 tonnellate di CO2. Che significa, per dirti, Milano senza traffico per 32 mesi. Che non sarebbe male neanche quello, poter avere male. Quello non sarebbe male. Anche Roma per 10 mesi senza traffico, se non vogliamo togliere nulla a nessuno. E quindi quello che significa è fondamentalmente il divano su cui io sono seduta in questo momento è forse pesa l'equivalente di un paio di settimane di traffico di Milano, quindi perché il tessuto usato, il legno, il trasporto, l'imballaggio iniziale, tutto contribuisce a ovviamente un impatto di CO2, però ovviamente non buttandolo ma invece dandolo a qualcun altro, grazie a questo io vado a risparmiare parte delle emissioni che altrimenti buttarlo via comporterebbe. Quindi non sono le emissioni diciamo che derivano dal fatto che io lo devo smaltire, ma voi avete calcolato le emissioni per la produzione del nuovo divano. Noi abbiamo calcolato quant'è l'emissione di un oggetto dal momento in cui nasce, incluso il suo imballaggio, e quindi quell'oggetto vale già dalla nascita un tot di impatto ambientale. Se quell'oggetto invece di prenderlo e buttarlo via completamente, gli allunghi la vita e lo passi a qualcun altro, vai a risparmiare eventuali altre emissioni rispetto ad un altro oggetto nuovo, e anche le emissioni che comporterebbe smaltire quell'oggetto. E quindi questo calcolo poi contribuisce a un grosso risparmio, un grosso effetto positivo sull'ambiente. Sì, perché tra l'altro noi siamo sempre spinti a comprarci cose nuove, ma come ricordavi giustamente, gli oggetti che abbiamo spesso sono fatti per durare molto, specialmente l'obsolescenza magari o programmato, piuttosto che ci siamo stancati di quell'oggetto, ci sta, anche io voglio comprare il divano nuovo, ma invece di buttare il mio vecchio lo vendo a qualcun altro e me ne compro un altro nuovo. Sì, perché non è detto che sia vecchio o stravecchio rispetto all'altro che avevo già comprato. Certo, quindi aiuto magari qualcuno a comprarsi un divano di buona qualità di cui io mi sono stufata ma che non è in cattive condizioni. Assolutamente. Tra l'altro contribuisco anche all'acquisto, no? Vendo uno, compro un altro, quindi incasso anche qualcosa, ecco, non... Infatti la cosa divertente e bella della compravendita dell'usato è proprio che c'è comunque la possibilità con la vendita di qualcosa di comprarsi qualcosa di nuovo che prima non avevi, e apre ad una scelta di opportunità di acquisto più ampia, anche perché 2 lire in più ce le hai per comprarti qualcosa che desideri, sia nuovo che usato ovviamente. Allora, a chi avete commissionato questo studio? Questo studio è stato fatto da un istituto di ricerca svedese, che è l'istituto svedese di ricerca ambientale, fatto in collaborazione ovviamente col gruppo Shift, da cui Subito appartiene. Quindi sono stati 5 paesi principali, Svezia, Norvegia, Francia, Spagna e Italia, a fare questo studio. Infatti tutti insieme abbiamo risparmiato, diciamo, 12 milioni di tonnellate di CO2, che sono praticamente 1100 voli in giro per il mondo. Come tipo di emissione. Beh, l'unione fa la forza, no? L'unione fa la forza, assolutamente. Dunque, questi sono i 5 paesi in cui voi lavorate, quindi ovviamente sono quelli che avete sott'occhio e avete scelto questi. Ci sono delle differenze sostanziali tra l'uno e l'altro? Ci sono, non lo so, tendenze diverse, per curiosità, visto che abbiamo te a disposizione per capire un po' le differenze tra paesi europei? Sì, allora cambiano i paesi un pochettino a livello di quanto pesano le categorie. Quindi ci sono paesi che sono diciamo più pesanti, tra virgolette, sulla categoria, per esempio, auto, tipo l'Italia. La categoria auto, per subito, pesa molto a livello di annunci. Quindi abbiamo la passione di cambiare l'auto? Abbiamo la passione di cambiare auto, mentre invece pesa un pochettino di meno in altri paesi, soprattutto quelli un po' più piccoli come la Norvegia, la Svezia, un po' per natura del fatto che sono paesi più piccoli, un po' perché differenziano magari anche su altre categorie. La Francia è molto forte su categorie, per esempio, per la casa e la persona, quindi sull'usato per la casa e la persona, verso l'Italia che è ancora in crescita su quella categoria, quindi varia un po' anche a livello della cultura. In ogni caso l'auto è numero uno per tutti in termini di compravendita dell'usato ed è quella che pesa molto come impatto ecologico, ovviamente. Tra l'altro, quindi, sì, di quei 12 milioni e mezzo che ti ho menzionato, 10 sono solo auto. Se ci pensi, non sempre tutti pensano: ah, ecco, ho venduto il mio divano, ho guadagnato qualcosa, però non pensano: ho fatto anche bene all'ambiente. Ed è un messaggio che noi vogliamo passare anche ai nostri utenti affezionati che ci usano sempre, che non solo hanno fatto qualcosa di bene per sé, ma anche per l'ambiente. Ma come fate a passarglielo lì? Non lo so, indicate anche il tipo di risparmio di CO2 equivalente che hanno fatto? No. Adesso lo stiamo comunicando in home page per passargli il messaggio, ma mi piacerebbe un giorno poter comunicare a uno nel momento in cui l'utente ha concluso un buon affare, dirgli grazie per averci usato, ma soprattutto ricordati che quello che hai venduto ha contribuito positivamente all'impatto ambientale. Un po' come si fa con i biglietti del treno, no? Che dietro c'è scritto: esatto, hai risparmiato tot, e quindi si potrebbe, esatto, ricevere una sorta di certificato che ti dice: con questa, esatto, compravendita. Sarebbe molto bello, assolutamente. Sì, quella è la logica. Esattamente. No, sì, appunto, perché solitamente uno pensa: ho comprato la macchina nuova e va bene, però non pensa di aver risparmiato anche, appunto, sulla produzione. Tra l'altro, l'ho visto, ho letto in alcune interviste che avevi già rilasciato, ma mi sembra molto importante dirlo. La domanda lì era sui posti di lavoro, no? Non, sì, perdiamo posti di lavoro, perché in realtà, risparmiando da una parte del denaro, riusciamo a avere a continuare a far girare l'economia su altri settori. Assolutamente, assolutamente. Infatti non c'è un impatto da quel punto di vista, perché la disponibilità di più denaro da parte di tutti, perché hanno venduto qualcosa che non usavano più, rimette in circolo quei soldi. Quindi io stesso lo faccio, diciamo, abbastanza regolarmente, e non mi tolgo i miei sfizi, mi compro le mie cose nuove come ho sempre fatto prima, ma adesso magari qualche soldo in più, perché devo dire mi libero magari di cose che mi porto dietro che effettivamente non mi servono più. Quindi è proprio quello l'aspetto dell'economia del second hand, che in Italia comunque cuba 18 miliardi di euro, circa l'1% del PIL italiano, di compravendita dell'usato, fatta sia online che offline. Quindi è una realtà molto grande, ma non va, appunto, ad intaccare quella che è l'economia del nuovo. Tra l'altro ho letto, adesso purtroppo non sono riuscita a recuperare questo articolo che avevo letto, che gli italiani sono tra i più criceti, che hanno la mania di accumulare in casa tantissime cose che poi non usano. Criceti, sì. L'italiano effettivamente è un po' più cricetino rispetto ad altri paesi che noi vediamo, che sono un po' meno affezionati all'oggetto e se ne liberano con più facilità. Forse noi siamo un popolo un pochettino più romantico e ci attacchiamo ai nostri oggetti un po' di più, però sì, c'è sicuramente un fattore culturale. Però l'italiano sta capendo che liberarsi di alcune cose che non vuole più, per togliersi qualche desiderio, qualche sfizio, è un modo smart di fare un acquisto, e quindi lo vediamo crescere come fenomeno di anno in anno, con sempre più utenti che usano Subito. Allora, io ti ringrazio, Melanie Libraro, General Manager di Subito, e aspettiamo di ricevere allora la comunicazione che arriva, sono pronti i certificati per il risparmio e le emissioni di CO2, così ci risentiamo. Va bene, grazie. Ci fermiamo, tra poco, come promesso, parliamo di efficienza energetica per gli impianti sportivi. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. L'altro pianeta. Ancora ben ritrovati da Laura Bettini. Come vi dicevo, in questa seconda parte di questa puntata ritroviamo Marino Piasentà, pioniere nel campo delle energie rinnovabili. Noi ci siamo conosciuti ormai nel lontano, possiamo dirlo, 2008, in occasione di un premio che gli fu attribuito da Legambiente per il sistema FEE che aveva ideato e che permette di recuperare il calore prodotto da sistemi frigoriferi. Poi negli anni ci siamo incrociati per l'adattamento di quel sistema ad altre sfide, fino a quando la scorsa settimana ci siamo rivisti in un centro sportivo di Castelnuovo. Dov'è Castelnuovo? La provincia è quella di Pavia, però Castelnuovo in sé dista una cinquantina di chilometri da Pavia, molto meno da Novara e Vigevano. Quindi stiamo parlando del sud-ovest di Milano, per intendersi. Il centro in questione si chiama Happy & Fit, spendeva molto per l'energia necessaria, in particolare per la piscina, un problema che l'accomunava, perché ormai l'ha superata, tanti altri centri sportivi con piscina, e Paolo Riccio è il proprietario di questa struttura e ci ha tracciato un po' il quadro del prima. Niente, la situazione era come tutte le piscine, che per andare avanti luce e gas, perciò dobbiamo cercare di contenere i costi e abbassarli il più possibile. Dentro qua c'è una piscina da una mezza vasca da 25 metri e poi ci sono due vasche piccole per un totale di 5x12,5, divise su due livelli per bambini, disabili, le persone anziane, esatto, per cose lì. Però nel complesso ci sono anche tante altre cose, perché le piscine sono coperte da un pallone presso statico dove il generatore consuma gas e luce. E il consumo più grosso della piscina a livello elettrico sono le pompe, i motori delle pompe della sede dove c'è tutto l'impianto, e questi motori sono di una certa portata e molto grossi. Ma non è necessario che siano sempre accesi al massimo questi motori di cui ci parlava Paolo Riccio. Marino Piasentà, che cosa ha fatto, che cosa propone, qual è il taglio nuovo, la prospettiva nuova che vuole introdurre? Il passaggio fondamentale tecnico è quello da un sistema on-off a un sistema prestazionale. Genius Therme, il brevetto dell'anno scorso, che quest'anno implementiamo col 2.0, fa proprio questo passaggio. Qual è la logica che ci guida? Noi non vogliamo più fare dei sistemi che fanno, diciamo, un determinato lavoro in modo fisso, ma vogliamo mettere delle sonde che controllano la qualità dell'obiettivo che ci siamo posti. Ammettiamo la piscina, la qualità è: io voglio l'acqua cristallina. Benissimo, metto una sonda che controlla esattamente la torbidità dell'acqua. A questo punto io so anche quanta gente entra in piscina, perché le persone che entrano in piscina la sporcano, per cui il segnale che mando poi alla mia macchina deriverà direttamente dal numero di presenze che ho, e allora la mia pompa della piscina andrà più forte o più piano a seconda proprio del numero di presenze che ho effettivamente. L'elettronica questo lavoro lo fa senza nessun ragionamento, lo fa in automatico, e il grande risparmio è determinato proprio dal fatto che l'elettronica, tra virgolette, è asettica. Lei semplicemente rileva quel dato e dà quel segnale. Nel caso delle palestre il discorso sarà ancora più interessante. La maggior parte delle persone va in palestra per dimagrire. Ebbene, per dimagrire, facendo movimento, noi abbiamo tutto il consumo aerobico delle nostre cellule, per cui il dimagrimento al 92% avviene tramite il naso, avviene tramite il respiro. Noi espelliamo in sostanze grasse al 92% con la nostra combustione interna. Ora, se noi in una palestra dove abbiamo le 35 persone che diceva prima il signor Riccio, queste persone producono calore e producono CO2 in maniera proporzionale all'ossigeno che stanno consumando. A questo punto, se noi diamo con la sonda della CO2 un giusto ricambio d'aria, mantenendo l'ossigeno, la quantità di ossigeno, il massimo del possibile tra la zona in cui siamo, io taro sempre le sonde del CO2 a seconda di dove sono. Cioè, quando vado a Milano vado a vedere che purtroppo la CO2 è molto alta di base, è come un rumore di base che a Milano in città sarà alto. Se vado a Domodossola in alta montagna ho molto più ossigeno di base. Allora, cosa succede? Io faccio la taratura della mia sonda alla più bassa velocità possibile, alla minima presenza di CO2 che ho nell'aria, e da lì faccio partire la misurazione della mia macchina. La mia macchina deve arrivare a dare la qualità dell'aria migliore possibile, okay? Per cui il mio parametro è punto zero, quello lì, quando c'è il massimo dell'ossigeno, non c'è nessuno in sale e così via. Appena entra una persona, produce CO2, la macchina prende l'aria esterna e va a compensare il rapporto a quello che serve in quel momento. Così, se ho 5 persone avrò un volume d'aria, se ne ho 10 due volumi d'aria, se ne ho 35 avrò 7 volumi d'aria, che, ma contemporaneamente non butto via l'energia termica, perché in effetti viene compensato il numero di metri cubi d'aria che sto inserendo, viene compensato anche dal calore prodotto dal corpo umano. Allora tutto rimane bilanciato e in proporzione. Questa è l'ottimizzazione prestazionale. Da un sistema. Il passaggio da on-off al, esatto, prestazionale, quindi sempre o tutto acceso o tutto spento, oppure acceso quando serve, insomma. Acceso quando serve e quanto modulante serve. Quanto serve. Acceso quanto serve. Questa applicazione, questo modo di applicare gli inverter su tutti i motori elettrici fa in modo che tutti i motori elettrici abbiano una vita più lunga, meno manutenzione e stiano bene, lavorano bene. Contemporaneamente il fatto di applicare l'inverter riduce i consumi, ma a questo punto il porre l'obiettivo come proprio come valore e passare proprio alla logica prestazionale, vuole raggiungere la migliore qualità di aria, la migliore qualità di acqua e consumare il giusto, è proprio il passaggio fondamentale per la riduzione dei consumi che io prevedo. Per un centro sportivo come questo dove siamo oggi, lui ha ottenuto il 20% con le pompe delle piscine. Quando completo l'operazione di ottimizzazione prestazionale, questo centro sportivo secondo me arriverà a ridurre il 50% il consumo. A quel punto facciamo davvero la politica dell'energia rinnovabile e la facciamo con consapevolezza. Cioè, non mettiamo un impianto grandissimo per fare corrente elettrica, mettiamo un impianto giusto. Allora, a mano ci troveremo sempre a poter fare gli investimenti più equilibrati, più sicuri. Il nostro cliente spenderà meno e avrà la corrente elettrica che gli serve fino all'autonomia totale. Allora, abbiamo saltato un passaggio che è quello dell'acqua della piscina, perché mi hai parlato molto dell'aria, del ricambio dell'aria, di quello che è il secondo step, ma qui avete iniziato con la prima parte che è quello dell'acqua. Cosa succede, insomma, su quella parte lì? Anche lì si controlla quante persone ci sono in acqua e che tipo di attenzioni ci sono a seconda della maggiore o minore presenza di persone. Allora, anche qui l'importante è l'obiettivo. Che cosa fanno quelle pompe per cui lui spende di corrente elettrica? Fanno circolare l'acqua dentro dei filtri sostanzialmente a sabbia. Cosa fanno questi filtri? Tolgono le particelle solide e mantengono cristalline pulita l'acqua dove noi ci buttiamo a fare il bagno. Non fanno altro in realtà. E allora noi cosa dobbiamo fare? Semplicemente mantenere pulita l'acqua. Mantenendo con una sonda di torbidità noi sappiamo esattamente quante persone, o meglio quanto sporco le persone buttandosi in acqua hanno creato, perché lei lo legge. E allora le pompe vanno più forte o più piano a seconda se hanno necessità di pulire più in fretta l'acqua oppure possono stare tranquille, per esempio di notte quando non c'è nessuno. Tra l'altro, lavorare più piano con la velocità dell'acqua all'interno del filtro fa una filtrazione molto migliore, non solo risparmiamo corrente elettrica, ma siccome il passaggio dell'acqua è più lento, l'attività del filtro è più perfetta. Allora, durante la notte, semplicemente proprio abbassando la velocità, noi al mattino troveremo un'acqua molto migliore. È importante non fermarla l'acqua, perché se fermi l'acqua si formano alghe, hai tutta una serie di controindicazioni. L'acqua deve sempre rimanere in movimento, ma la giusta velocità dà una migliore qualità. Ora, il risparmio è importante perché il risparmio ci fa pagare la macchina, ma l'obiettivo è sempre il risultato, che è quello di dare l'acqua più cristallina possibile. Questo è pacifico. Noi spendiamo per avere un risultato. E questo è il segreto del prestazionale rispetto ai sistemi on-off. I sistemi on-off sono rozzi, brutali, vanno sempre, punto, non hanno eleganza. Beh, la cura Piacentà ha funzionato o meno? L'abbiamo subito chiesto ovviamente a Paolo Riccio, il proprietario della struttura. Devo dire che abbiamo notato poi a distanza di 3-4 mesi, confrontando le bollette dell'anno precedente allo stesso periodo, un notevole risparmio che sulla bolletta generale a me incideva il 30%, circa 25-30%, però nel caso del Genius, dove è intervenuto, sicuramente molto di più, perché io fa il 30% di una bolletta generale dove ci sono tante altre apparecchiature anche, certo. Ecco, perciò sul Genius penso che a conti fatti potrebbe essere 60-70%. Quindi sullo specifico c'è da andare avanti ed eventualmente approfondire, come dicevamo prima, di magari attaccare il generatore della pressurizzazione del pallone, da tenere costantemente a norma di legge, però è inutile che faccio girare la macchina a 100 quando mi basta 10, perché dentro ci sono 5 persone anziché 50, tutto qua, ecco. Bene, ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Marino Piacentà, che ci ha fatto molto piacere risentire dopo molti anni che ci eravamo un po' persi di vista. Ricordo, per le informazioni su quello che fa Marino e quello che ci ha spiegato adesso, perché ci sono anche tabelle molto precise, il sito di riferimento è www.sistemafe.it. Ci ritroviamo la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.